Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, mi sono svegliato di colpo, sudato, domani discuto la tesi, l'ho sognato in commissione, David che rompeva le palle con Zagrebeschi e Cruciani che continuava a dirmi: se non togli quel viva voce ti mando a fanculo. È tutto finito, tutto finito. Sentire la Zanzara dall'India alle 4:30 di mattina in podcast fumando un gran spinello di Charas. Alec Zanzara. Stai attento a quello che ti racconto, Parenzo. Tipica giornata sgarbiana. Poi uno dice che può morire da un momento all'altro di infarto, per carità, non vogliamo assolutamente che accada, però amico mio Vittorio, tipica giornata sgarbiana. Ore 11 conferenza a Tirana in Albania. Ore 13:30 volo per Milano Malpensa. Ore 15 presentazione del libro a Usmate Velate. Ore 17 inaugurazione di una mostra a Brescello. Ore 18:30 collegamento televisivo da Bologna per TGcom. Ore 19 conferenza stampa a Ferrara. Ore 20 volo per Lamezia Terme. Ore 21:30 premio letterario a Palmi. Ore 23 collegamento televisivo sulla 7. Ore mezzanotte cena. Ore 1 visita nelle chiese di San Gineto. Ore 2 sopralluogo monastero benedettino. Ore 3:30 sopralluogo nel centro storico di Rossano Calabro. Ore 4:30 riunione operativa con i collaboratori, che poi non è vero. Ore 6:30 ricerca di un albergo. Ore 7:30 sopralluogo nelle camere. Ore 8 pediluvio. Ore 9 riposo. Ore 10:30 sveglia. Allora ragazzi, il coccolone, l'infartuata è il minimo. È il minimo! Allora, vi faccio un esempio, poi si arriva no, a dire. Però scusami, sai perché lui lo fa adesso? La giornata per i quattrini, non è per i quattrini, perché è incapace di stare fermo, no, per i quattrini. No, lo fa perché in questo è straordinario, è tenero, è dolce, è da abbracciare. Perché è il suo modo di combattere la paura della morte, cioè riempire. Però puoi crepare, però. Però puoi crepare in questo modo. È il modo per combatterlo, capì? Così quando cade dici: cazzo, perché sono morto? Beh, ti credi, hai fatto quello. Però è il suo modo per non avere momenti liberi, sì, per sì, pensare alla morte. Allora, a un certo punto ieri in una delle trasmissioni televisive dove va, per esempio a, credo che fosse Piazza Pulita, si parlava degli assenteisti a Milazzo in Sicilia, no? La gente, la solita roba che non timbra cartellino, eccetera, eccetera. Senti che dice sui dipendenti comunali a Milazzo. Perché non dovrebbe fare qualcosa a Milazzo piuttosto che non fare niente? Tu sei un dipendente comunale e hai un dovere, ma se stai per 6 ore a non fare un cazzo, puoi anche dire: vado a spasso. Insomma, è una teoria piuttosto bizzarra, però c'è del vero. Cioè, se sei dipendente comunale a Milazzo, tendenzialmente, secondo Sgarbi, non è un cazzo da fare. Nulla, nulla, nulla da fare. Dunque dice: perché devo stare là? Allora vado a spasso. Vabbè ragazzi, però le frasi del giorno, caro Parenzo, come mi stuzzica questa cosa, lo sai come mi stuzzica quando si parla di Maometto, quando si parla di Islam medievale, di una religione sostanzialmente che tratta le donne come delle merde, come uno schifo. Dire, non offendere milioni di persone. Allora, perché è così l'Islam? Mi perché dispiace. Perché devi offendere la Kaaba Kebji? Ma oddio, ancora questo Kaaba Kebji. Perché devi Ma c'ha la moglie che dice le peggio cose. Perché al Consiglio Comunale di Milano. Il mio amico Khalid Chauki. Perché Khalid deve essere... Hai degli amici sbagliati, il punto è questo. Sei tu che hai degli amici sbagliati. Ciao chi, che è un ottimo ragazzo, un deputato. Ma chi se ne frega, è uno su un milione e milioni di persone. È che... un ragazzo islamico che allora. È stato anche minacciato. Perché deve essere insultato così? Io perché, conosco anche la moglie perché, adorabile, i perché figli. L'Islam è una religione, perché è una religione orribile perché? Sotto perché? Molti aspetti è orribile. Una religione perché orribile. Perché fai così? Perché la offendi? Perché la considero orribile sotto lui molti aspetti. Lui è in macchina con la sua famiglia. E io considero figli. La religione islamica. Perché deve sentire queste lordure? Ma quali lordure? Perché? Allora, Tujak. Perché? Allora, un pugile che si chiama Tujak, consigliere comunale della Lega, consigliere comunale della Lega a Trieste. Trieste. Ha detto che Maometto era un pedofilo. No, perché tu è un coglione. Maometto, beh, no, però la cosa è anche abbastanza vera, documentata. È un bestemmiatore, prima. No. È un bestemmiatore, te lo dice uno che, come sai, appartiene, come dire, a un altro partito. Beh, ma che c'entra? Scusa, ma è la verità. È la verità. Partito. Comunque, sentiamo quindi tu. Quindi non è che devo difendere. Sentiamo il pugile. Bestemmiatore. Sentiamo il pugile, dai. Era un pedofilo, Maometto, sposato. Ma è andato, ha sposato una bambina di 6 anni. Siamo questo è. Cioè, lei dice... Una volta si usava così, mi spiace, ma adesso sarebbe pedofilia. Ho capito, una volta si usava così. E dire che Maometto è pedofilo, cioè... Si prende a 54 anni una sposa di 6 anni, no, ma certo. Secondo me anche anni fa certo. Era pedofilia, no? No, l'ho detto una cosa sbagliata, in italiano certo. Si chiama pedofilia, io che sono ignorante, no? Nel 500, nel 500 si parlava no, di... No, era normale a 54 anni prendersi una sposa di 6. Se magari gli islamici lo giudicheranno come una cosa buona, visto che ancora adesso hanno l'usanza delle spose bambine, così dicono, qualcuno dice che sono portatore di cultura, a me questa cultura fa schifo, non la voglio. Subito un commento parenziano ci vuole. Come lo consideri, un coglione questo signore? No, il commento parenziano è molto semplice. Intanto è una persona, è un coglione, questo stava a sentire. Ma perché? È una persona che ha bestemmiato. Ma che bestemmiato, ma smettila, dai. Ma smettila. È uno che ha bestemmiato. Ha offeso milioni di fedeli. Milioni ma che di milioni fedeli? Di fedeli? Non ha offeso nessuno, ha raccontato una cosa vera. Ha offeso milioni ha raccontato di fedeli. Una cosa vera, che Maometto era un pedofilo. Spero appunto, che non dai. Ci metteremo a discutere su questa cosa, che è una stupidaggine cosa. Ma perché, scusa, ma è vero o no? È come aprire l'Antico Testamento. Sarebbe come aprire l'Antico Testamento, cioè, o il Nuovo Testamento, anzi dire: ah, ma allora, scusami, Gesù come ha fatto a camminare sulle acque del Giordano? Ma perché, lascia perdere, Maometto, è vero allora, o no questa cosa qua? Che ha sposato una bambina di 6? Sì. Di queste scempiaggini non mi metto a discutere, specie dopo che ho sentito questa stupidaggine in bocca a un signore di un partito che mi pare sia la Lega, non so. Sì, la Lega, la Lega, la Lega, beh, quello che c'entra, scusa. Non so credo. Neanche che cos'è, un boxer della Lega, perché un boxer, perché che ti fanno? T'hanno fatto schifo i boxer, non possono pensare, no, non possono dire la Lega. Un boxer della Lega che parla un boxer di della Lega. Allora, la cosa in ordine è questa, un boxer, va benissimo, eletto in Consiglio Comunale con la Lega, va bene, che si mette a parlare di religione di Maometto. No, amico mio, non partecipo alla disputa. Ma quale coglione. Disputa? Ma non è un coglione, è un tu, è uno che ha raccontato una storia vera. Maometto si è comportato da pedofilo, pedofilo. Non si può bestemmiare. Ma che cazzo me ne frega a me del traffico, che sono in giro a piedi a cercare i po'. La Zanzara. Allora, ti faccio ascoltare un'altra roba, David. Salvo Mandarà. È tornato a colpire. Ma perché questo programma non cambiamo nome, lo chiamiamo La Cena dei Cretini, ad esempio? No, voglio dire, c'era quel film straordinario, che è un film francese, che no? Consiglio. Ricordo benissimo. No, tu so che lo sai, ma quei quattro imbecilli che chiamano, non agli ascoltatori di cui ho il massimo rispetto. La cena dei cretini. No, lo devono sapere. Ma l'abbiamo, lo sappiamo già. I milioni di ascoltatori hanno il mio rispetto. Poi ci sono una serie di idioti che sono i telefonisti. Non è vero, ma non è vero. 99.9%. Non è così. Ci ho detto, io cambierei il titolo della trasmissione e metterei, come dire, in radio con i cretini, la cena, ecco, la cena dei cretini. Ma allora, no. Allora, che c'entra Mandarà? Allora, Costituzione per questa rubrica è perfetto. La Costituzione è massonica. Senti. Va bene. Anche la Costituzione, comunque massonica, con tante cose secondo me che non vanno, a partire dall'inizio del primo articolo, cioè che l'Italia è una repubblica democratica, lasciamo stare democratica, fondata sul lavoro. E questa è una cosa gravissima che io non accetto. Non accetto di essere un cittadino di una repubblica, diciamo, democratica, fondata sul lavoro. Questa è una cosa inaccettabile, perché vuol dire fondata sulla schiavitù. Tra il lavoro e la schiavitù c'è una differenza che forse solamente il genio di Mandarà sa cogliere. Però ti vorrei far notare un'altra cosa. Immagina se per caso un professore, un costituzionalista, Carlassare, Zagrebeschi, se per caso non lo stanno facendo, ascoltassero questa trasmissione. Immagini se per caso il professor Zagrebeschi. Che c'entra Zagrebeschi? Improvvisamente dice: se vediamo un po' che cosa fa Radio 24, non so se è all'RMoscia, questa radio straordinaria del gruppo Sole 24 Ore, radio di economia. Accende e sente sto minchione che parla di ma tu ti rendi conto? Il presidente degli Stati Uniti è fantoccio in mano ai sionisti banchieri. Chi ha detto questo? Sempre Mandarai. Senti, sionisti banchieri. Senti. Vabbè. Lo sapete benissimo che in effetti non governa il presidente degli Stati Uniti, è solo un fantoccio comandato a bacchetta dai sionisti banchieri che governano il mondo. Questa è la realtà. E andiamo a Napoli. Mandarà seguirà altro, andiamo a ancora. No, seguirà altro. Allora, Facci dice: i napoletani sono un'etnia. Non c'è in quel caso la fuga dei cervelli, no? Mandarà, no, non vuole andare all'estero, vuole rimanere in Italia. Non vuole restare un po' all'estero. No, vuole rimanere in Italia. Facci, i napoletani sono un'etnia diversa. Vuoi dire che i napoletani sono un'etnia diversa? Sì. Questa suddivisione è basata sulla prima lingua parlata mediamente da un popolo individuato come etnia. E siccome, appunto, se vai nel Kurdistan c'è una... Auriemma contro Facci. Ma Facci è o Facci fa? E questo è il dubbio di questa giornata, perché applaudiamo questa battuta bellissima di Auriemma. Sì, provo a mettermi al tuo livello della tua ironia o della comicità. Poi, no, non è comicità, la mia è conoscenza. Però hai parlato, lasciami dire. Sì, almeno io so di che parlo. Mi piace però che tu sei scarsamente conoscente di ciò che accade nel mondo. Parlata. Io capisco che tu ti rizzelli un po' quando qualcuno parla di razzismo, perché tu sei il primo a farlo. No, noi vabbè, ti conosciamo allora, fin troppo bene. Allora va bene che mandare però, tutto però in vacca. Dai, perché... no, mandare piano con le parole, sì, piano con le parole. Piano io sono con le un parole. Giornalista. Piano. Vuoi che ti ripeta quello che hai scritto? No, hai detto non me ne frega niente. Io sto parlando di un argomento. Sì, sono informato. Puzza, sono informato. Cerco di informare gli spettatori. Scritto, se tu hai qualcosa puzza, nei miei confronti, telefona. Vuol dire che tu non conosci questa realtà. Allora andiamo a Milano, Ayman da Milano, Ayman credo sì, che sia muslim, musulmano, Ayman. Sì, Cruciale. Dimmi, che fai di mestiere, allora, Ayman, che fai? Faccio il camionista. Fai il camionista musulmano? Sì, sono qua da 20 anni, ma purtroppo io rispetto tanto l'Italia, ma se l'Italia ha tutta la gente come te, io non rispetto nessuno, perché tu non sai rispettare nessuno. Che ho fatto, scusa, che ho detto stavolta? Tu non devi insultare i musulmani, ok? Io non ho insultato nessuno, ho detto che Maometto... No, tu devi continuare a parlare del froce, della figa, da pisciare nel lavandino. Ecco, devi parlare di questa sporchiccia che stai parlando. Bravo, ma del nostro fratello. Prefetto, no. Ma scusa, Ayman. Bravo, fratello, hai ragione. Io ho riportato le parole. No, ma ha ragione lui, ti devi occupare di quei temi. Ok, non devi insultare il nostro prefetto, tu devi parlare della figa, del culo, del froce, di questi qua... Ma ok, è stato o no con una bambina di 6 anni? È stato o no con una bambina di 6 anni, Maometto? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Ma vai a cagare, crociale. Il tuo profeta è stato o no? Il tuo profeta. Non sai rispettare a te stesso neanche. Ayman, è stato o no? Il tuo profeta. Tu non sai rispettare è stato a te no? Stesso. Il tuo profeta, Maometto. Il tuo. Il tuo. Il napoletano che sono più pulito di te. Il tuo profeta Maometto è stato o no con una bambina di 6 anni? È si è sposato? Sì, tu parli di qualcos'altro. Uno come è stato te o no? Frocci. Io sto riprendendo uno una come te che li pagano per parlare di frocci, di figa. Ma non solo di quello. Queste cose, okay? Perché ti fanno schifo? Ti fanno schifo i frocci? Ti fanno schifo i frocci? Ti fanno schifo? Ti fanno schifo? Come mi fa schifo pure a te? Ah, lo vedi che ti fanno schifo? Ti fanno uno schifo, che eh? Che vede la sua mano che si scopa con gli altri. Uno se va bene a quello te. Oh, la tua moglie che fa, Ayman? Sta a casa? Se sta a casa, Crociale. Che fa di mestiere? Niente, figuriamo. Niente. Beh. Noi rispettiamo le donne, non è che tratta le donne come schiave, noi rispettiamo le donne. Sì, certo. Ma questo certo. Si chiama Ayman o... O Kaiman, dici? No, Ayman. Scusa, è vero o no che il tuo profeta Maometto era un pedofilo, sì o no? Sta zitto, Crociano, non deve nominare neanche il suo nome perché la tua bocca sporca. È vero o no? È sporca. Vero o no? Non deve parlare proprio da lui. Vabbè, non devo parlare di Maometto, non si può parlare di Maometto qua. Non si può parlare di Maometto. Ha fatto un consigliere comunale della Lega a Trieste dicendo che Maometto era un pedofilo. Ma a te quel consigliere di cazzo! Ma perché? Non ho capito. Qual è il problema? Non si può... ragione, perché è una bestemmia. Ragione. E tu difendi gli islamici! Crociale, e tu difendi gli islamici! Da ebreo difendi gli islamici! Anche nelle peggiori cose! Nel loro rapporto con le donne! In molti paesi... Ma io sono contro la bestemmia alle religioni! Ma quale bestemmia alle religioni? Questa è una verità che ha detto questo! Lascia perdere che la vuole sfruttare politicamente! Ma quale verità? Ma che cosa vuol dire? Ti seguo da 3 anni che ti seguo, okay? Chi lo disse pure? Non mi è mai venuto in mente di parlarti perché non mi fa piacere parlare con te! Che faccio? Perché? Che ti ho fatto? Scusa. No, niente. Tu parli bene, fai il comico, parli di quello, parli della figa, del... Ma che c'entra adesso? Cosa c'entra? Ok, se quel livello, quello è il tuo livello, non deve superarlo. Ayman, Kaiman, ti chiamerò Kaiman adesso, Kaiman. Ayman mi chiamo. Come? Ayman, quell'Ancona, Ayman di Ancona. Cosa ne pensi di quello che ha detto che Maometto è un pedofilo? Quel consigliere Crociale, della dimmelo, Crociale. Che ne pensi? Non deve parlare proprio di quello. Ah, Maometto non va pronunciato il nome. Puoi di Maometto. Puoi leggere la storia. Tu sei ignorante. Ma io l'ho letta la storia, amico mio. Ce l'ho qua davanti la storia di quando si è sposato con quella di 6 anni. Quello ricordava quell'episodio lì. Ha detto che è un pedofilo. Tecnicamente è un pedofilo. Capito? Kaiman. Vabbè, ci sentiamo dopo, dai. Io faccio la guida turistica. Boldrini, da oggi in poi voglio essere chiamato... Il guido turistico. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenichi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. La Zanzara. Crociale, ascolta, ma io ti seguo da 3 anni che ti seguo, ok? Sta zitto, parli di qualcos'altro, uno come te che li pagano per parlare di frocci, di figa, di queste cose, ok? Se ne quel livello tu stai bene, non devi superare quel livello. Adesso torniamo su Maometto pedofilo. Non l'ho detto io, naturalmente, però tecnicamente è così. Ma un tizio. Ma che vuol dire? Ma aspetta, stai calmo. Adesso ci torniamo subito. Ma ci no, torniamo mi incazzo, perché non si può bestemmiare gratuitamente. No, ragazzi, non parliamo di bestemmia quando parliamo di cose tecniche. Parliamo di una cosa tecnica. È una cosa tecnica. Per loro tecnica. È una bestemmia. Ma per loro, a me che me ne frega se per loro è una bestemmia. Scusami, abbi pazienza. Ma come te ne frega? Tecnicamente è così o no? È così. Però aspetta, ma non è per... così per niente. Ma sarebbe come se qualcuno offendesse in diretta cosa? La Madonna, no? Ma che c'entra? Signore, dipende che cosa dici. Dipende che cosa dici. Dipende cosa dici, amico. Ma mio, non no? Dipende. Se per loro è una bestemmia, è una bestemmia. Ma che basta. Vuol dire? Ma se uno considera una bestemmia, che ne so, tipo la generosità, è una bestemmia. Ma che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente. Dipende da che l'oggetto della discussione. È una bestemmia. Ma non è vero. Allora, aspetta un secondo. Mi stanno chiamando tantissimi. Non si possono insultare milioni di persone. Innanzitutto, dillo al consigliere comunale della Lega di Trieste. Non lo dire a me. Ma quello glielo ho detto, ma quello è un cretino. Diglielo al consigliere comunale di Trieste, in primis. Ma in primis. In primis. In primis. In primis. In faccia, ma che scherzi. Allora. Trump, altri video naturalmente, altri audio, altre voci su accuse di molestie. Ovviamente non ci sono denunce, mai denunce, però donne che spuntano fuori, eccetera. In questo caso non c'è nessuna donna, ma è un'intervista radiofonica, come al solito, dal mitologico Stern del 2006, se non sbaglio, in cui a un certo punto Stern gli fa la domanda: ma tu ti definisci un predatore sessuale? E lui, beh sì, certo, e insieme c'era anche la figlia, cioè nell'intervista insieme seduti, sì, c'erano anche la figlia, cioè tutto alla luce del sole, tutto chiaro, tutto lampante, tutto trasparente. Cioè non è che uno gli chiede: ti dichiari un predatore sessuale? Uno dice: no, figuriamoci, non faccio niente. Beh sì, ridendo e scherzando, ovviamente. Donald, seriously, you know about sexual predators and things like that. I mean, you are one. All right, I was gonna say that. È proprio la figlia che parla poi a un certo punto, vabbè. Questo è Trump. Io farei risentire tutta la questione di Maometto. Ancora? No, la farei risentire perché c'è anche da ricordare una cosa, credo, della Sant'Anchè del 2009. Allora, poi fu scortata per quella roba lì. Cioè, se tu dici una cosa del genere, poi ti tocca la scorta. Ma ti credo, perché poi qualche matto fondamentalista c'è, ma in generale. Ah, ecco. Ma quello sicuro che qualche fondamentalista. E invece, se c'è un bestemmiatore, dico un bestemmiatore così, della Legione Cattolica, hai bisogno della scorta. Ma che c'è? Hai bisogno della scorta. Ma non bestemmia Dio, no? Senti, dire una cosa tecnica. Ma scusa, tecnica. Non è che siccome i cattolici non minacciano, allora per questo sono autorizzato a bestemmiare la Madonna. Ma chi ha detto che sia autorizzato? Nessuno ha detto che sia autorizzato. Quindi, quella cosa che quel signore, quel cretino, quel boxer, quel non so chi è, quello lì, quello Tuyak, lì della Lega. Te lo faccio risentire, Tuyak. Ma... Aspetta. Era un pedofilo, Maometto, sposato. È andato a sposato una bambina di 6 anni. Siamo per. Questo è. Cioè, lei dice... Una volta si usava così, mi spiace, ma adesso sarebbe pedofilia. Ho capito, una volta si usava così. E dire che Maometto è pedofilo, cioè. Si prende a 54 anni una sposa di 6 anni. No, ma certo. Secondo me, anche anni fa era pedofilia, no? No, ho detto una cosa sbagliata. In italiano si chiama pedofilia. Io che sono ignorante, no? Nel 500 si parlava di. No, era normale a 54 anni prendersi una sposa di 6. Se magari gli islamici lo giudicheranno come una cosa buona, visto che ancora adesso hanno l'usanza delle spose bambine, così dicono, qualcuno dice che sono portatore di cultura, a me questa cultura fa schifo, non la voglio. Sant'Anchè, credo 2009, se non sbaglio, no? 2010, 11, 12, 13, 13. Possiamo dire che per noi Gesù Maometto, Cristo, che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni era pedofilo. Ma sta zitta con le sue falsità, sta zitta adesso, che parliamo di una cosa, di una cosa seria, che lei vuole parlare di cose di schifezza come lei. Barbara. Noi vogliamo parlare di cose serie. Di dire basta, la Corte Europea, ma sta zitta, che stiamo parlando di cose serie, non le schifezze sue. Danno le bambine agli sceicchi. No, voi, preoccupatevi. Allora andiamo a Issa, Milano. Issa, vai Issa. Oh, ciao, io non posso trattenermi perché il telefono non sono in grado di tenerlo, perché sto frammendo come un pazzo. Bravo. Ma Cruciani, tu sei tu sai quello che dici tu? Scusa, che cosa ho detto io? Scusa, di strano. Cosa ho detto, allora, di strano? No, allora, tu sei un giornalista. Allora, ma lascia perdere, sono un giornalista, non sono un giornalista. Cosa ho detto di strano? Allora, hai detto una cosa molto grave sul nostro prefetto. Tu sei un ate. Allora, va bene. Tu non credi un cazzo, sono... va bene. Sì, noi allora... aspettiamo quello che tu hai scelto. Allora, abbiamo fatto una scelta. Questa scelta deve rispettarlo. Ma quello che stai dicendo, ma tu puoi essere quello che hai detto Parenzo è vero. Cosa? Ma tu non hai capito quello che tu stai dicendo. È grave. Ma che cosa? È molto, che cosa è molto grave, non solo per te, ma per tutto il Radio 24. Hai visto come le cose che sono successe lì in Francia? Perché? Sai perché? Cioè, mi stai minacciando? No, non ti minaccio. Vedrai altre persone, non solo io che vengo da te. Altre persone verranno da me. Ecco il democratico Issa, che è appoggiato da Parenzo. Appoggiato da Parenzo. Appoggiato da Parenzo, che gli dice bravo. Gli dice bravo. Gli dice bravo a questo. Tu stai facendo delle cose gravi, perché tu, io ti ascolto da anni, lui ha detto. Ma qual è la cosa grave? Non ho capito, Issa, qual è la cosa grave? Chi è che verrà? Chi è che verrà qua? Non ho capito, chi è che dovrebbe venire secondo te? Non ho capito, chi è che dovrebbe venire? Allora, le persone che sono non sono in grado di controllarti bene. Allora, tu anche hai detto all'inizio che non sei in grado di controllarti. E speriamo che non ci vediamo. Perché? Che fai? Mi picchi? Mi picchi? Mi picchi? Mi picchi? Mi picchi? Mi picchi? Che fai? Per vederti. Perché? Eh sì, perché, Crociano, tu mi stai dicendo una cosa grave. Tu fai, io ti capisco da anni, perché... Tu hai rubato un'idea di Radio 105. No, ma senti, lascia Issa, non rompere i coglioni, non mi interessa. Allora, Issa, non mi interessa. Hai rubato un'idea della Radio 105. Ma stai zitto un attimo, stai zitto. Stai... Loro sono dei comici, sono delle persone normali. Senti, sono Issa, delle persone Issa, tene, non mi interessa. Stai parlando di. Stai parlando. Ma tu hai rubato l'idea. No, ragazzi, lo mettete a tacere questo qua che è un cretino. Non capisci, Issa. No, davvero, allora, parla in maniera seria. Parla in maniera seria. Parliamo della questione di cui stiamo parlando, non di stronzate. Allora, Issa, non io... è stronzate, è non vero. Mi interessa, non mi... Oddio, guarda. Metti una... allora, io voglio che hai detto che ti stai trattenendo, ha detto che ti stai trattenendo, perché ti stai trattenendo? No, tu non posso, no, perché io sto tremando come un pazzo. Perché per che te. Fai? Perché che fai? Che fai? Se mi incontri che fai? Ma non lo so. Mi picchi? Mi picchi? Mi meni? Tu stai sognando, tu stai insultare il nostro prefetta. Ma non si sa, bisogna rispettare le musulmane. A parte che in teoria non ho minacciato. Non devi insultare il musulmane, sono milioni di milioni. Issa, in teoria non sono stato io che ho detto, ma rivolgiti al ma tizio di Ma non devi dirlo tu, ma la Rete 24. Allora, amico mio, le conosci le spose bambine? Le conosci le spose bambine? Le spose allora, bambine? Le conosci o no il fenomeno delle spose bambine? Allora, io sai quante no, sono nell'Islam? Che... Nell'Islam quasi 15 milioni. 15 milioni, sotto i 13 anni. Sotto i 15, bene, capito? Io non sono ignorante. Cito dei dati di organizzazioni internazionali. Tu, prima di dire delle cose, bisogna fare investigazione, vedere bene se è vero o Issa, falso. Issa, ma io non sono qua per esplicarti mi questo stai, perché mi non hai vale minacciato, la pena mi hai, mi hai minacciato. Tu sei una persona... fallita, sei un persona fallita, un giornalista che dice ciao Issa, fallai Udine, ciao fallai Udine, fallai fallai, ok, dimmi i gamberetti, che c'hai i gamberetti, fallai, che devi fare? Ciao Cruciani, dimmi, stasera tutti gli islamici chiamano. No, guarda, vai, io, fallai, dimmi. Può darsi lei direi che io faccio di minacce, può darsi lei direi che sono un imbecille, può darsi lei direi che non lo so, sono dimmi, un devi parlare prima. No, veramente, quello che il tuo collega di lavoro ha detto, Parenzo, è giusto, lei non ha nessun rispetto verso la gente. Ma io non ho detto nulla, è un tizio di Trieste che ha detto qualcosa, è un tizio no, di Trieste. Ma tu hai detto che si può dire. Io ho detto tecnicamente è così. Ma non vuol dire niente tecnicamente, non è così. Una guarda, religione, è una bestemmia, perché bisogna investigare? Adesso lascia stare che c'è qualche pazzo in giro fallai, nel mondo. Dimmi. Hai sbagliato, perché lei è giornalista. Ma non lascia perdere, che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dirmi? Voglio dire che l'imbecille di Trieste che ha detto questo... Lei non dovrebbe riferire questo alla radio. Ah, non lo dovrei riferire. Sicuro, tu devi decidere mio. Se io posso dire una cosa oppure no. No, lei pentirai di questa roba. Io mi pentirò. Sì, sono sicuro. E come mi pentirò? Perché? Perché mi dovrei pentire? Vedrai con il futuro. Perché? Che succede? Che succede? Mi viene a cercare? Che succede? Mi vengono a colpire? Che succede? Tu, il cuore, l'imbecille sei tu. E allora che succede? Perché mi dovrei pentire nel futuro? Che succede nel futuro? Sono sicuro che ti pentirai. Perché? Prima o poi. Perché? Tu hai il mio numero di telefono, hai il mio nome. Io ho detto questo. Mi pentirò per che cosa? Perché mi minacciano? Per che cosa? No, quello che hai detto sul profeta. No, mi stai minacciando. Mi stai minacciando. Mi pentirò di quello che ho detto. Quello hai detto tu. Mi pentirò di quello che ho detto. Vedrai, vedrai. Tu sei un coglione. Sei un coglione. Un imbecille. Mi pentirò di quello che ho detto, giusto? Sono sicuro. E perché mi pentirò? Magari ti telefonerò dal letto di ospedale, ti telefonerò dalla tomba, da dove ti devo telefonare? So. Ah, non lo sai. Non lo so. Cioè, non lo so. Mi stai dicendo, sicuramente hai detto... Come? Ho detto imbecille che sei. Sì, va bene, imbecille l'ho capito, imbecille, stronzo, non so che cosa hai detto. Vaffanculo. Vaffanculo pure, sì. Ma tu sei muslim? Muslim? A tra poco. Crociato, ti devi fare un bagno nell'acqua santa per lavare sia lo sporco fisico che quello della tua anima. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Non ti preoccupare, che io una fraccatina con te me la farei, dai. Hai quel fascino dell'intelligente, di quello sempre incravattato, del giusto, tipo Robin Hood. Sì, una fraccatina con te quasi quasi me la farei. Ma sì, dai. Ma non lo so, quasi quasi mi arrapi. Questo è importante sottolinearlo, questa è una cosa nuova, importante da sottolineare. Allora, tutti quelli islamici che ovviamente non sono assassini, persone, come definisce Parenzo, civili, e ne conosco tantissimi pure io, vorrei dire una cosa molto semplice. Abbiamo mandato all'inizio di questa trasmissione delle frasi di un consigliere comunale di Trieste, chiamasi Tujak, un ex pugile, che ha detto in una trasmissione televisiva in Friuli Venezia Giulia queste parole testuali che abbiamo già ascoltato. Non le rimandiamo in onda perché altrimenti sembra che lo facciamo apposta, no? Assobillare le cose, eccetera, eccetera. Ma non è, le abbiamo già mandato in onda due volte, per cui non c'è bisogno di rimandare in onda un'altra volta. Questo signore ha detto che Maometto è un pedofilo, ricordando un episodio che era già stato ricordato più volte, che potete trovare su internet, potete trovare dappertutto la storia, che non è che si può smentire, è accaduta naturalmente moltissimi anni fa. Cioè il fatto dello sposalizio, del matrimonio del signor Maometto, del profeta Maometto, con una bambina di anni 9. Allora, questo signore ha detto che tecnicamente la cosa è pedofilia, sarebbe interpretata oggi come pedofilia. Io ho ripetuto, da questo punto di vista è così, punto e basta. Non è che io mi sveglio la mattina e dico l'Islam Maometto era un pedofilo, no, dico che tecnicamente, cosa che non è che dico solo io, tecnicamente trattasi con le leggi di oggi di pedofili. Aspetta, fermo. Niente. A questo aggiungo. Aggiunto. Non vuol dire niente. No, ma che vuol dire una bestemmia? Non c'è questione di bestemmia. Lascia perdere. Quella è una bestemmia, è un insulto a una religione. Vabbè, è un insulto. Dire una cosa tecnica è ma un insulto alla religione. Ma cosa vuol dire tecnica? È come dire Gesù cammina sulle acque. Ah, ma sì, ma non è vero, ma come fa a camminare? Qualcuno giustamente si offende perché stai bestemmiando. Ma perché sto bestemmiando? Non ho capito. Sto dicendo una cosa che è successa. Ma se uno si mette anche a discutere. È scritta nella storia. È scritta. A parte che la polemica è nata in Friuli Venezia Giulia da un consigliere comunale, primo. Ma non è che mi sto nascondendo dietro questo. Infatti, quello lì ha detto una stupidaggine, ha bestemmiato. Allora, per te ha insultato milioni di fedeli. Scusa, si può discutere sul fatto che per te ha bestemmiato e per me no? Ci sarà la possibilità ma di discutere? Ma non è per me o per te, è oggettivo. Ma che vuol dire è come percepito? Non è per me o per te, è oggettivo. Beh, siamo arrivati a una conclusione. Nei paesi civili la bestemmia non è considerata reato, una volta lo era, ma è considerata incivile. Dunque la Sant'Anchè ha bestemmiato. Ma dunque, certamente ha bestemmiato. Dunque, certamente che ha bestemmiato. Allora, ma io dico una cosa. Io poi ho fatto un altro ragionamento, prendendo spunto da alcune notizie che si possono anche là facilmente trovare nel web, che riguardano le spose bambine. Ma leggo, questo è un altro tema che non c'entra niente. No, ma c'entra, come no? Allora stai sostenendo quella tesi lì, avanti ancora. No, non ho detto questo. Ho detto quel dramma, non c'è nessuna tesi in quella roba là. Là si ricordava un fatto. Là si ricordava una stupidaggine. Quel dramma. Cioè, un signore che si mette a discutere del Corano, in quei termini è un idiota, un cretino, un ignorante, un bestemmiatore. Quello può darsi perché lo fa il Consiglio in una trasmissione televisiva. Lo fa in modo strumentale per affrontare le sue tesi politiche, quello ed è un imbecille. Allora, io poi ho letto una cosa. Quel dramma delle spose bambine è un altro tema. Beh, non è un altro serio tema. Ma nulla a che vedere con quella bestemmia. Riguarda molto l'Islam, però. Riguarda... Ma no, riguarda alcuni paesi. Riguarda alcuni stati. Di religione islamica, in cui c'è ma non c'entra non niente. Non c'entra niente. La religione islamica non c'entra niente. Va bene, d'accordo. Siamo arrivati. Ma vogliono spiegare a milioni di persone che vivono. Va bene, perché la religione islamica ma non c'entra. Ma perché devi negarla a quella roba lì? Allora, l'Islam... stai giustificando. Tu, che dai, vai avanti per la tua strada. Ma non è la mia strada. Sto dicendo semplicemente che tu vuoi negare il fatto che il fenomeno delle spose bambine sia legato alla religione islamica. Ma è legato a un'interpretazione che ha un'interpretazione. Sempre Islam è però un'interpretazione mamma dell'Islam. Mia, un'interpretazione vabbè, dell'Islam o no? No, nemmeno quello. Nemmeno un'interpretazione dell'Islam. È tutto così grossiero. Ma non è grossiero, ma non è grossiero, è la realtà. Cioè, ma scusa, ma sono dati delle Nazioni Unite, non è che lo dico io. Ma quali Nazioni Unite? Ma le Nazioni Unite nessuno si mette a dire queste cose. Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Dicendo qua. Mario nessuno. Da Parma, Mario da Parma. Ma le Nazioni Unite non ho mai sentito nessuno bestemmiare Maometto. Ti sto dicendo un'altra cosa, i dati sulle spose bambine è un altro tema che riguarda i crimini che fanno alcuni stati. Mario non da c'entra Parma, niente. Mario da Parma, c'entra. Cosa cazzo c'è? Se uno, non Maometto, uno di 54 anni che costringe una bambina di 9 anni a sposarlo. Ma di cosa discutiamo? È uno di 54 anni che costringe una bambina di 9 anni a sposarsi. È un animale schifoso. Ma malato. Io non parteggio, se punto. Uno dice queste cose qui malato, io non dico niente, non parteggio. Malato. Se vabbè, poi Maometto ha fatto queste cose, o non le ha fatte, questo dice non lo che so. Io non partecipo, no, perché no, non questo posso. Questo non lo so. Io non so se Maometto le ha fatte. Lui sta parlando di una, lui sta parlando di una persona X. Io sto dicendo in generale, in generale è un malato. Se questo signor Maometto le ha fatte o no, non lo ma so. Ma io non partecipo a una discussione su questa roba. È un malato anche lui. E se qualcuno si offende, sti cazzi, perché io è quello che penso io, punto. Poi gli altri penseranno quello che vogliono, ma quello che penso io è esattamente questo. E così come io rispetto il loro modo di vedere. Io non partecipo alla discussione di questo tipo, perché è assurdo. Marco da Biella, la discussione che è stata avviata da un signore che è consigliere comunale. Ma questo qui che telefona, ma devi chiuderlo, che dice delle stupidaggini. Perché devo io non chiudo nessuno, qui non si chiude nessuno, devo chiudere Mario. Se uno bestemmia io chiudo e me ne vado. Marco da Biella, ma non sta bestemmiando. La bestemmia di Dio, non mi interessa. La bestemmia di Dio. Sarò politicamente corretto, ma non assisto a uno radioascoltatore che bestemmia. Ma non sta bestemmiando, sta dicendo un'altra cosa. Ma non sta bestemmiando. Giocando sul filo del ma quello 54 anni, ma che Marco discussione da Biella, è? Marco da Biella, ma vallo a dire al signor di Trieste, mica a me, Marco da Biella. Cioè, è quello che ha avviato la discussione, mica io. Cioè, vai Marco, dimmi. Puoi intervenire? Oh, grazie. Allora, smettiamola per cortesia di avere paura di dire le cose, perché questa è la verità. Hai paura di dire le cose. Allora, vi ricordate quando c'erano sugli autobus, io ho 53 anni, le scritte, si ricorda che la bestemmia è reato? Quando sono state eliminate quelle scritte e ovviamente i corrispondenti articoli del codice, siamo d'accordo, è stato un passo avanti? Sì. Allora, io non voglio tornare ai tempi di Torquemada, rivendico il diritto alla bestemmia. Vabbè, adesso fermo, ma devi stare tranquillo però, adesso il diritto alla bestemmia è un altro discorso, qui non è ammessa ammessa la bestemmia, questo è chiaro. Non ero da bestemmia, non ero a parte che non l'ho detta io, l'ha detta un signore di Trieste, ma non mi voglio difendere dietro questo. Ma non è neanche una bestemmia, dopodiché a me non piace la bestemmia. Cioè interpretare la bestemmia, discutere di una cosa che è successa, tecnicamente è successa. E sì, qualcuno la interpreta come pedofilia e tecnicamente 54-9 è pedofilia. Dire questo è bestemmia. Vabbè, ragazzi, siamo arrivati a questo punto di politicamente corretto, a questo punto di avere paura di dire una cosa tecnica. Ma io non ho paura proprio di niente, ma che me ne frega a me, non è paura. Anche se fosse stata una bestemmia, io rivendico il diritto a poter bestemmiare senza trovarmi qualcuno armato sotto casa. Vabbè, quello sicuro al 100%, quello sicuro al 100%. Posso dire che la verginità di Maria è una bufala senza che nessuno mi spari, e posso poter discutere anche di un fatto tecnico, ma anche bestemmiare senza che nessuno venga a spararmi, questo è il concetto. No, ma su questo hai pienamente ragione, e soprattutto senza che qualcuno venga a minacciare, come hanno fatto quei due signori prima che hanno chiamato, i primi due, compreso quel camionista che va richiamato, signor camionista. Preciso. Cioè, infatti, E infatti Cruciani, perdonami se ti dico questo. Cioè a me non mi interessa, si può discutere, si può dire stai bestemmiando, stai sbagliando, quello che vuoi. Uno può dire quello che vuole, mi può attaccare sì, ma non minacciare come ha fatto quello. Quello che io dico e che mi spaventa anche un po', è il fatto che io tante volte ho provato a telefonare in trasmissione e non sono mai riuscito perché ero preoccupato. Stavolta era libero, c'è pochissima gente che vuole intervenire su questo tema. Hanno paura. No, ti sbagli. Mi piace molto, sbagli. Ti sbagli. Sarà un caso, per carità. Però io non vorrei che ci fosse questo regime di paura nel quale non riusciamo neanche più a parlare. Ma di voi confondete, la volgarità e la violenza delle parole con la paura. Ma nessuno si è mai indignato tanto per una bestemmia qualche volta. Scusami, David, secondo la tua cosa, siccome quella la signora Santanchè è una bestemmiatrice, ti prego di non invitare. Ti prego, quando fai una trasmissione in televisione, di non invitarla mai più. Qualora venisse, dicesse io la smetterei fuori dallo studio. Sì, figuriamoci. Dicesse una cosa simile. Ma tu, siccome tu la consideri una bestemmiatrice, non la invitare mai più, nemmeno su un altro tema. Ma nemmeno su un altro tema la dovresti invitare, considerandola. Se dicesse una cosa come quella da me in diretta, l'avrei smattuta fuori dallo studio. Ma nemmeno, non la dovresti chiamare più, nemmeno per un altro tema, perché la consideri una bestemmiatrice, la consideri su quel tema lì, quello è una bestemmia. Su altre teme può dire quello che gli pare. Simone da Firenze, avesse detto una cosa simile, l'avrei sbattuta fuori dallo studio. Secondo me no, comunque, Simone da assolutamente. Firenze. Assolutamente. Buonasera, Cruciani. Simone da Firenze, non credo proprio. Ma non perché ho paura di chissà chi, me ne frega niente. No. Simone da Firenze, vai. Simone. Sì, ciao a tutti. Intanto, è un fatto che è un'informazione quella che viene fornita da Cruciani, così come dal Pugile. Non è che ho iniziato la trasmissione dicendo: ragazzi, ho scoperto oggi che Maometto è un pedofilo. C'è un signore di Trieste, un consigliere comunale della Lega Nord, peraltro appoggiato in pieno dal suo partito, chiamatemi il capogruppo a Trieste, il quale appoggiato in pieno dal suo partito, regolarmente rappresentato al Parlamento italiano. Sarà cretino quello che vuoi, il quale ha detto in una trasmissione e poi ripetuto su Facebook, se vuoi ti leggo le frasi per internet: Maometto è un pedofilo perché è andato con una bambina, si è sposato una bambina di 9 anni. E magari un signore rappresentato in Parlamento, che comunque può avere detto una cazzata, può aver detto una cosa esagerata, può aver detto una cosa che non c'entra niente con l'oggi. In parte c'entra, secondo me, il rapporto dell'Islam con le donne. C'entra sempre il rapporto dell'Islam con le donne. Ma a parte questo, non ha nessun diritto di essere minacciato a mano armata da qualcuno, capito? E su questo non c'è dubbio, perché se tu bestemmi, io non bestemmio, ma se uno bestemmia, oggi non è che i cristiani ti vengono a cercare sotto casa, chiaro? Se tu dici quello che sappiamo, i cristiani non ti vengono a cercare sotto casa? Questa è la differenza. Ma certo, ma si offendono e ti denunciano. Denuncia. Ormai la bestemmia non è manco più passibile di denuncia. Comunque, questo, Simone. Ma uno si sente offeso. Sì, però, certo, si può sentire offeso, non c'è dubbio. Simone da Firenze, certo. Chiunque si può sentire offeso. Ma nessuno mette in dubbio che uno si possa sentire offeso, per carità. E qui non è bello. Ma non lo so, se tanta gente si sente offesa per tante cose. Che vuol dire? Ma sono delle cose che sono abbastanza oggettive. Secondo te, dire che a Maometto un pedofilo è una bestemmia? Va bene, abbiamo accertato. Assolutamente sì. Simone da Firenze, vai. Sì, allora di fatto. No, era lui, Simone, scusami, dimmi. Sì, grazie. È un'informazione probabilmente verosimile quella di Maometto. Cioè, di fatto, però, questa informazione viene strumentalizzata fondamentalmente per fomentare l'odio razziale. Credo sia palese da questo punto di vista. Beh, certo, il signore della Lega non è che l'ha detto così. Cioè, l'ha detto evidentemente per strumentare per fare un po' di casino, su questo non c'è dubbio. Ecco, negli elementi più semplici, direi, attecchisce ancora di più, soprattutto se fa una risonanza mediatica tale che arriva anche dove solitamente magari non arriverebbe quel messaggio. Ragazzi, però, la signora Santanchè, che l'ha detto in una trasmissione ed è un po' più importante dal punto di vista mediatico del signore di Trieste, non mi pare che glielo ricordano ogni volta che va in giro. Cioè, va in giro in tutte le trasmissioni a parlare di qualsiasi cosa, è seduta allora in Parlamento. Secondo me la trasmissione, sicuramente. Il minimo comune denominatore, cioè se l'Islam uguale pedofili, perché si basano su fondamentalmente... Questo nessuno ha mai detto pedofili. Ho detto che c'è... su un profeta pedofilo, di fatto. Cioè, allo stesso tempo, allora, parliamo anche del cristianesimo, che a tutt'oggi è alla luce degli scandali e delle rivalte per i preti. Questo figura, con me sfondi la porta aperta, io sono ateo, che me frega, lo dico sempre esatto, dei preti pedofili e tutto. Parliamo dei pagani che buttavano i bambini dentro il vulcano per venerare. Nessuno dice niente, non è che uno fa la crociata contro l'Islam, ma a me non me ne frega nulla. Io sto dicendo semplicemente che ho detto una cosa che può essere anche criticabile. Tecnicamente, a prescindere da Maometto o no, quella roba lì, 54 e 9 anni, è pedofilia. pedofilia, sì o no? E non c'è nessuno al mondo che mi può dire che non sia pedofilia. Che sia Maometto, che si chiami Giovanni, che si chiami Francesco, che si chiami Cristo, nessuno mi può dire il contrario, è così. Poi quello l'ha utilizzato in maniera strumentale, su questo non c'è dubbio. Oh Marco, senti, mi serve un po' di roba buona, bella, pesante. Ah, non c'è il pusher? Chi è? La zanzara? Vabbè, è uguale. La zanzara. È semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. In an hour's time. Allora ragazzi, torna a colpire il nostro amico Giancarlo Cito, caro Parenzo. Giancarlo Cito, come sai, ex sindaco di Taranto. Così ci calmiamo un po', poi magari sì, ci torniamo. Altro personaggio, Altro personaggio, Losco. Losco, sì, si può dire Losco. Insomma, protagonista politicamente Losco. Condannato varie volte. Varie volte condannato. Lui nega. Razzista declamato, conclamato. Razzista declamato, adesso. Razzista un declamato. Razzista conclamato. Proprio. Conclamato. Un allora. Razzista certificato, doc proprio. Allora, il signor Cito, come sapete, al signor Cito hanno tolto 2.000 e rotti euro di vitalizio perché condannato oltre i due anni. Dal mio punto di vista è anche un provvedimento sbagliato, perché se devi toglierlo ai condannati, solamente ai condannati, altro errore secondo me, che vuol dire toglierlo ai condannati, cioè non ha senso, no? Cioè, se lo devi togliere ai condannati, il vitalizio lo devi togliere a tutti i condannati. E poi soprattutto, se uno, voglio ripetere questa cosa fondamentale, se uno viene riabilitato, glielo ridanno, mentre è un'assurdità questa qua, no? Perché la riabilitazione è una cosa tecnica, non ha nulla a che fare con la pena che rimane, no? Tu sei stato condannato a 3 anni e poi riabilitato, cioè riacquisti i tuoi diritti, per esempio puoi andare a votare, puoi essere votato, eccetera eccetera. Il signor Cito, ospite fisso della signora D'Urso, anche qui bisognerebbe capire, ma probabilmente basta guardare le curve, no? Là, basta guardare le curve di ascolto. Cito dice: io non rinuncio, non fate venire i neri in Italia che costano. Adesso mi dovrebbe spiegare, signor Cito, il rapporto. C'è Paco da Belluno che vuole intervenire, il nostro amico islamico. Non ti preoccupare, Paco, stai lì tranquillo che ti richiamiamo. Cioè, stai lì in diretta che poi ti chiamiamo. Signor Paco da Belluno, islamico, sarà incazzato con me sicuramente. Però ci prendiamo un attimo di pausa su questo argomento, perché anche questo è interessante. Cito, io non rinuncio, non fate venire i neri in Italia. Perché non rinuncia? Perché non noi andiamo a vedere, temo che voglia rinunciate dire. a far venire i neri in Italia che costano 37 euro guardi, al giorno. Guardi, e la gente non ho capito questa battuta, tema, lei Cito. Mi fa tornare su dove Cito, io ho Cito. Una certa competenza. Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. 37 euro al giorno. Ha sbagliato interlocutore. Datemi una mano a casa loro. Lei ha sbagliato. E voi state parlando del vitalizio. Poi litiga con la Meloni. Bisogna dire all'onorevole Meloni che ha detto delle inesattezze, perché la norma regolamentare riguarda l'organizzazione dei lavori della Camera dei Deputati. Non è vero, Cito. Ma che stai dicendo? Riguarda tutto, riguarda le monumento dei parlamentari, riguarda le prebende, riguarda i privilegi, riguarda cose, tutto, ma non capisci santa. Nulla. Sì, vabbè. Hai capito tu? Ma lei ha sbagliato a stare in Parlamento. Almeno a me non mi daranno il vitalizio, Cito. Almeno a me non mi daranno il vitalizio. Sì, ma fammi un piacere, state zitta, va. Che inguaglio tu, partite tu, che inguaglio. Ma stai zitta, stai. Non ho capito, Cito. La Camera, la Boldini, non può revocare un vitalizio. Si rifugi anche lei nella Corte Costituzionale. Si rifugi anche lei nella Corte Costituzionale fatta di pensionati d'oro che le daranno ragione. Ciò non toglie che non è giusto. Chi è il presidente? Non l'ha fatto nella Costituzione, sia zitta. Sia zitta! Guardi, sto allora, zitta. No, zitta! Il giorno in cui sono zitta, zitta perché me lo così, dice lei, zitto. Sparatemi! Per... Ok? Cito, ma state zitta, stai zitta, vai a dormire. La parola qua, però, se posso, la do e la tolgo, potesse. Mi arrogo questo. Ma tu non sei nemmeno dalla sinistra, non sei. Non ho capito. Ma che sta dicendo? No, parla pugliese, parla terenba. Non la seguo, mi dispiace. Se posso permettermi di tradurre. Vai a imparare il codice penale. Sono pugliese come Cito. Vai a imparare qual è il codice penale. Ma è inutile che lei si alberi così. Io non capisco semplicemente come stanno le cose. Poi non è che stiamo togliendo 3.000 euro al mese. Cito contro Meloni. Allora ragazzi, dove andiamo? Paco, stai lì. Angelo Caserta, vai, Angelo. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi, Angelo. Ti volevo dire, tu parli tecnicamente, ed è giusto, per noi atei è tutto tecnico. No, capisco poco, parla meglio, parla più alto. Ti volevo dire. Sì, ma sei con l'auricolare, sei con l'auricolare. No, sei col viva voce o con l'auricolare? Già ho fatto tutto. Allora, ti volevo dire che per noi tecnicamente sì. È tutto tecnicamente. Sì. Noi siamo atei, non pensiamo a niente, siamo liberi e dobbiamo essere liberi. Questo è un mondo libero. Chi sta in Europa, in Italia, deve rispettare le nostri usi e i nostri costumi. Noi siamo liberi. Ti volevo dire, allora, Maria è lo stesso che per noi Maometto è un pedofilo. Tecnicamente Maria per noi è un'adultera. Maria adultera, Maria adultera. Sì. Aspetta che ci rifletta un attimo. Aspetta, Angelo, aspetta. Mi ha appena chiamato mia moglie che sta per nascere mia figlia. Podcast della Zanzara al massimo e si va in autostrada. E siamo al top. La Zanzara. Ah, Crucia, sono nel volo New York-Roma. Mi sa che una bella pisciata nel lavandino gliela stampo in prima classe. Tujak? Scusa? Tujak? No, ha sbagliato numero. Sicuro? Sicuro. Sei Tujak? No, assolutamente no. Sei Tujak. Mi chiamo Roberto. No, sei Tujak. Senti, non so chi sei in questo momento. Sei Tujak, passami il telefono. Passami Tujak. Ma che cazzo dici? Ma chi sei? Passami Tujak. Vabbè, ciao, eh. Passami Tujak. Sì, pronto. Tujak? Sì? Sono Cruciani, ciao. Oh mio Dio. Oh, ciao. Vabbè, però fermo lì che sì. Stanno minacciando anche me, figurati un po', stanno minacciando anche me. Per cui fermiamoci un attimo, allora. Guarda, io dirò solo due parole, perché sono state grandissime polemiche. Sì, e io questo non l'abbiamo capito. Non avevo veramente intenzione di offendere nessuno. Hai detto una cosa. Ti scusi con chi? Scusa, non ho capito. Mi scuso per le persone che ora mi minacciano. non so cosa dire. Io cioè, te la stai facendo sotto, non ho capito. No, si scusa. Guarda, perché hai detto una sciocchezza. No, sai cos'è? No. Io veramente ho solo criticato questo imam che chiedeva in Danimarca che le spose bambine siano tollerate. E ho ricordato. Cioè, tutto nasce. Aspetta un attimo, fammi capire. Tutto nasce da un imam in Danimarca che ha detto che bisogna tollerare. Ho condiviso un articolo del giornale che spiegava che questo imam voleva che vengano tollerate le spose bambine. E ho solo ricordato che è nelle tradizioni islamica perché Maometto ha sposato a 54 anni Aisha, che ne aveva 6. Scusate, ma io ho una bambina di 9 anni, non posso tollerare questo, non voglio che diventi questa la normalità anche qui. Per cui hai detto Maometto è un pedofilo, questo hai detto. A lei cosa le sembra che sia se un uomo di 54 anni va con una bambina di 6? Che cos'è? Forse un pedofilo? Dunque, penso anche in queste sia. Allora, non ho capito perché, per quale motivo ti devi tirare indietro, però. Cioè, non ho capito se lo dici. Ci sono state veramente tantissime polemiche, perché sa quale c'è una parte politica che ama veramente più gli islamici che non i cristiani. Qual è la parte politica? La sinistra, dici? Tu cosa pensi? Dimmelo tu, che ti devo dire? Cioè, secondo te c'è una parte sinistra, che è una parte politica, cioè la sinistra che ama più gli islamici? Io lo so che sinceramente mi rendo conto che non tutti gli islamici sono così, mi rendo conto. Lo so che la maggior parte degli islamici sono moderati, non sposeremo mai una bambina, però bisognava assolutamente condannare quell'imam e non condannarmi a me per quello che ho scritto. Che ho scritto di getto, l'impulsivo. Beh, l'hai anche detto. Pensando però a quello che aveva fatto Maometto, lo sai cos'è? Io sento veramente questa fede cristiana e leggo la Bibbia. Però la Bibbia viene interpretata, il Corano no, viene preso la lettera. Ma che dice? Ma che non si può lasciare temi così in mano all'ignoranza di chiunque. Ma chi gliel'ha detto a lei che il Corano non viene interpretato? Allora, non mi risulta allora perché, che in Italia perché i musulmani si sposino con delle bambine? Ma che dice? Ma lei io ho anche detto che la maggior parte. Aspetta, guardi che chiudo se le dà fastidio. Ma che chiudo? Ma dovrebbero chiuderla lei da qualche parte. Lei sta giocando col fuoco. Aspetta, Tu Iac, aspetta un attimo, parla un attimo con me. Allora, la questione. Non conosce la materia. Allora, la questione è molto semplice. La questione è molto semplice. Qualcuno dice che questa frase qui che tu hai detto, cioè Maometto. Io non volevo offendere nessuno. In italiano si chiama pedofilia. Se c'era un altro termine lo potevo usare, mi spiace, in italiano. Però si chiama dire pedofilia oggi uno può interpretare. Anch'io ho detto la stessa cosa, ho detto tecnicamente se così. Un uomo di 54 anni con una moglie di 6, cos'è? Ma di cosa lei discutete? Ma che vuol dire? In lingua italiana non si chiama pedofilia. Lei che è un cattolico, mi pare, no? Allora, sì? Se un idiota si mettesse a discutere di come la Vergine Maria è stata messa incinta, se qualche idiota si mettesse a discutere questo è il mistero della nostra religione. In modo così volgare e grese, non ovviamente niente, la comunità cristiana in Italia... No? Si sentirebbe offesa se un idiota pari come lei, un musulmano idiota come lei è un idiota, perché ci sarà anche un idiota tra i musulmani. Io non ho voglia di sentirmi offendere qua da non so neanche chi, quindi adesso chiudo. Aspetta il ragionamento un attimo. Sì. Non insulto più nessuno. Se un musulmano, lei come si chiama di cognome? Tuyak, non mi ricordo. Tuyak. Abbassato. Se Tuyak, il musulmano Tuyak. Qual era il discorso? Se il musulmano Tuyak? Io dico, se il musulmano Tuyak, un Tuyak qualunque, un musulmano fondamentalista, anche non qualunque, si mettesse a discutere pubblicamente, con quel tono polemico, anche con quell'intento politico, sulla verginità della Madonna di Maria. Non succede. Qualcuno della comunità cattolica. Non succede perché il collegamento l'ha spiegato bene lui. Il collegamento è. C'è un Islam oggi. Tutti condannano le spose bambine. Ci sono degli imam che non li condannano. Ci sono degli imam. Sono dei criminali. Ho capito, ma oggi non c'è. E quelli sono dei criminali. Ma ho capito, lui di quello stava parlando. Ma non stava parlando, lo sta parlando in modo greve, volgare e ovviamente con un intento polemico e politico, e questo nessuno glielo incolpa, anzi io glielo incolpo, perché ovviamente è creare un casino, è soltanto per creare gli hai dato dell'idiota. il minimo sindacale va bene, d'accordo, ma il minimo. Ma dovrebbe, anche lui adesso dice chiedo scusa perché forse ha capito di aver fatto un casino. Aspetta fammici parlare. Tuyak, parla con me. Adesso gli ha dato l'idiota, non risponde naturalmente. Va bene, troverà il modo di rispondere. Se è intelligente vedrai che premerà ok del telefono e risponde. Però rimane quello che è. Vodafone. Va bene ragazzi, allora Massimo Varese, dai. Sto scrivendo a Dalla Cabachemici che mi dice: se vuoi ti, vi spiego bene cos'è la questione della sposa bambina, perché state bestemmiando. Comunque, Massimo Varese, la sposa bambina esiste però, non è che non esiste. Dalla Cabachemici mi scrive: ciao David, se volete vi spiego un po' meglio la questione della sposa bambina, perché non mi pare che la discussione stia prendendo una buttacchina. Massimo da Varese, Massimo sì, da Varese. Io non riesco a capire cosa ci sia da spiegare sulla sposa bambina. Cioè, adesso raccontare un fatto storico diventa una bestemmia. Qua mi sembra che stiamo andando di marcia. Un fatto storico? E non è un fatto storico. Ma lei sì, ma io voglio discutere. Stiamo discutendo. Allora, un momento. Lei, che non so chi cazzo sia, si ma mette a discutere. Usare ma la insulto termine? Perché non si può affrontare una discussione seria in questo, su un fatto no, scusami, storico David, di scusami. Ma soltanto te, Parenzo, puoi affrontare insultando le persone. Scusami. Ma chi ho insultato, scusa? Chi ho insultato? Allora, già mettere... Chi ho insultato? Non hai insultato, oggettivamente non hai insultato. Già parlare. Io sto raccontando di un fatto storico che è scritto. Ma cosa vuol dire sacro? Ma allora, ma anche qua bisogna fare distinzione. Vabbè, ma scusa, in questo caso, in questo caso lui sta raccontando una cosa, però. Vabbè, scusa. Io non riesco a capire. Bisogna conoscere la storia. Adesso raccontare un fatto storico diventa una bestemmia. Sappiamo tutti che Maometto sposò una bambina di 6 anni. E esatto, quindi... come sappiamo tutti che Maometto ha ammazzato decapitando delle persone. Ma vabbè, quello anche i cristiani hanno combinato di cotte di culo, no, non no, è quello, allora, dai. Ma la differenza sta che ci sono cristiani che hanno ammazzato. La differenza è nell'oggi. Allora, il tizio della moschea di Arus che citava prima, prima l'amico, aspetta un attimo, poi ti faccio continuare. Un tale Osama El Sadi oggi tale Osama El Sadi in un'intervista a un giornale danese ha esortato il governo, cosa che non avverrà mai ovviamente perché siamo in Occidente per fortuna, dove c'è la libertà di parlare anche di queste cose, mi dispiace Parenzo, ma c'è la libertà di parlare anche per fortuna di queste cose senza essere tacciati di bestemmia. Aspetta, senza essere di bestemmia. Allora, in un'intervista a un giornale danese ha esortato il governo ad accettare le spose bambine perché tale pratica è nella cultura dei migranti che arrivano nel paese. Nella cultura dei migranti che arrivano nel paese. Questo è il punto. Dunque, c'è qualche legame con quello che dice Tujak? Sì no. O no? Non c'è. No. Secondo te non c'è. Massimo, no, dimmi. Ma sai perché? Perché quello che dice Mujak... Tujak, sì. No, chiedo scusa. Tujak è chiaramente una cosa che ha un pretesto politico. Vabbè, questo adesso è chiaro che quello è della Lega, quello è della Lega, è normale. No, ma ha un intento chiaramente insultante, politico e politico. Tu dirai che è legittimo. Ma io dico che è legittimo nel senso che ha citato una cosa tecnica, non ha inveito contro Maometto. Ma capisci che adesso la questione non è affrontare tecnicamente o no ma chi nessuno. È stata, cosa è stata la figura del profeta. Io non ne ho sicuramente le competenze, questo boxer della Lega ne ha meno della mia scarpa, ma questo è un'altra... Questo adesso... No, ma questo è un'altra, lo dico pacatamente, è un'altra questione, questo boxer battutaro della Lega lo ha fatto con un intento che è semplicemente polemico e politico. Senza Massimo, fammi sentire Massimo. Un dai, cazzo. Fammi sentire Massimo. Adesso Parenzo la butta sempre in politica. Quando non. Ma questo è evidente, però. Quella è della Lega, non è che quella della Lega. Non è che. Cruciani sarà d'accordo su questo. Ma sì, ma l'ho già detto. Chiaramente. È una questione, è una polemica politica anche. Sicuro. Su questo non c'è dubbio. Non mi sembra che sia un sociologo delle religioni. No. Questo lì è un sociologo delle religioni? No. Soltanto Parenzo deve parlare di. Però scusami, non è che per fortuna oggi, in questo mondo, non è che di religione può parlare solo il sociologo delle religioni. No, siamo d'accordo. E allora, basta. Ma infatti, non è che discuto questo. Dico che smascherare l'intento di questo qui e intanto contestualizzare il perché lo ha detto e quindi perché è offensivo, ci spiega il quadro della discussione. Massimo, non è un sociologo delle religioni. Voglio capire una cosa, no? Perché adesso solo Parenzo può parlare di certi argomenti. Vai, Massimo, dimmi, Massimo. E gli altri offendono, vabbè, io voglio capire perché si dice sempre che bisogna stare che l'Islam è una religione di pace, poi ci sono quelli che si radicalizzano e che sono pericolosi. Qualcuno mi spieghi se un cristiano si radicalizza, che cosa fa? Al limite dice rosario un'ora sì, un'ora no. Invece un musulmano che si radicalizza va a ammazzare delle persone. Dirà Parenzo, c'è l'interpretazione politica dell'Islam. Io ripeto, sì, certo, sicuramente, ma sempre di Islam si tratta. E di fatto, perché questi qua, non era prima, anche stasera hanno minacciato. Eh beh, a me lo dici, hanno minacciato via radio, in diretta, qui. Fermi tutti, fermi. Non me lavo da una settimana, piscio sul lavandino, ho i capelli come Cruciani. È meglio che comincio a sentire Radio Maria. La Zanzara. Provincia di Treviso, ore 5. Passo davanti a una zona che sembrava un campo rom. C'erano delle baracche, bambini che giocavano, robe strane. Porsche bianca sotto una baracca. La casa veniva giù, ma Porsche bianca. Gli zingari svolgono un'opera sociale razzolando nei cassonetti. David, ti amo. Parenzo, hai detto una cazzata. Io sono di Asti, siamo pieni di Sintu e non ce n'è uno che lavora. Io lavoro e non arrivo a fine mese, cazzo. Crucianone, sei il solito razzista. C'ha ragione Parenzo, lavorano, rubano. lavorano e il loro lavoro è rubare. Anzi, lavorano pure tanto, perché spesso lavorano di notte. Gli appartamenti li fanno di notte, quindi dovrebbero avere anche un indennizzo per il lavoro notturno. Cruciale, tu sei sempre il solito razzista. Parenzo, da noi i rom sono ancora più efficienti. Gli elettrodomestici vengono a prenderceli in casa direttamente qui a Milano. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la Zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. La Zanzara. Io vorrei sapere da dove cazzo trasmettono questi del traffico. Si sentono peggio di Parenzo. Cioè, fanno le informazioni sul traffico e si sente come in una caverna. Ma fate un collegamento normale. Speranno qui a Siena anche loro. Allora ti dico solo questo, poi chiudo. Sì, l'amico Abdalla Cabacheggi, che si trova in mezzo ai monti, mi sta mandando. Abdalla, basta mandarmi tutte le interpretazioni del Corano, perché non tanto sì, non le voglio. Sì. Cruciani non vuole che le legga. Quindi, fratello, no, Abdalla, no, puoi anche leggerle, ma almeno... no, perché mi stanno mandando tutte le sure. Aspetta, che mi fermo, allora, sono in mezzo ai monti. È vero o no questa roba qua? Lui è vero scrive, o no? Se vuoi, chiamalo al telefono. No, dimmi, vedremo, dai, poi. Allora? Dice quel hadith, narrazione sulla vita del profeta, dice, perché poi sono tutte le interpretazioni. Dimmi, dai. Dice che Aisha si è sposata a 9 anni, ma quello è uno. In realtà le interpretazioni vere sulla vita di Aisha dicono che sostanzialmente, secondo il Corano, poteva avere attorno ai 24-25 anni. Ma questa è un'interpretazione, tutti quanti dicono che c'aveva 6-9 anni, non so quanti ne aveva, poi è arrivato uno che dice 24, ma dai, su, cioè. Allora, Gabriele da Milano, dai. Sì, dimmi. Sì, buonasera a tutti. Volevo fare una domanda a Parenzo, perché le tematiche mi sembrano abbastanza interessanti. È possibile? Gabriele, vai, forza, vai, diretto, no, vai. Volevo chiedere a Davide. Non è una provocazione. Lei è un islamologo, dimmi. Assolutamente no, non sono ateo, ma non sono islamologo. Non sono ateo. Dimmi, no, ma anche io non sono uno studioso dell'Islam, sono un conoscitore basico, ma non so. Dimmi comunque, io non. Volevo soltanto chiedere, sei in grado, posso darti il tuo, vero? Sì. Ma certamente. Sei in grado di smentire il fatto che il profeta si sia sposato con una bambina di 6, 9 o 24 anni? Poi dopo ti dirò altro. Ma allora, capiamoci un attimo, perché altrimenti vado ai matti. La discussione è talmente stupida e surreale che non posso neanche mettermi ad ingaggiare a farla. No, perché ha dei riferimenti col modo in cui l'Islam oggi, in alcuna... Sarebbe come prendere l'Antico Testamento e andare a chiosare ogni singola parola. Per fortuna non c'è nessuna influenza sull'oggi nell'Antico Testamento. Cioè, guarda, questo è il punto. Posso? Allora, potrebbe sembrare stupida come dici tu, però ha tirato fuori delle cose interessanti, nel senso che secondo me di base, e vorrei capire da te come mai sei così, come dire, sembri quasi preoccupato, cioè mi riferisco alla paura di poter... potersi esprimere, no? No, nel senso nessuna che... paura io. Figurati che fuori dalle sinagoghe, quando vado a pregare, quando sono stato a Kippur, c'è la polizia armata fino ai denti per contrastare il rischio di attentati dei maledetti fondamentalisti islamici. Quindi non ho paura. Che sono gli stessi che nelle, in alcuni stati... Non ho paura di niente. Sono alcuni... andato a pregare nei 2 giorni che non ero alla radio e per entrare nel mio luogo di culto ho dovuto passare attraverso delle straordinarie forze dell'ordine che proteggono come un fortino militare le sinagoghe. Quindi allora, figurati se ho paura. Non dovresti, dire... amare, ba- non dovresti amare la pratica che ancora oggi c'è delle spose e bambini in alcuni stati, non la dovresti amare? Ti sembra che sia uno che difende fermi tutti, questa fermo, porcheria? Bene, no, infatti è importante. Ho mai difeso questa porcheria? È importante questo, è importante. Dico che non c'è nessuna relazione tra questo e leggere il Corano ad vinciam, come fanno alcuni politici del cazzo, e mi dispiace se sono così crudo stasera, ma mi avete quello fatto ha raccontato una cosa tecnica, secondo me, punto e basta. Poi l'ha sfruttata politicamente. Allora, abbiamo con noi un'attivista vegana di quelle con le pale, anche se è una donna, cioè di quelle che non si arrendono, di quelle che non mi sopportano, di quelle che mi odiano profondamente, penso, che nutrono nei miei confronti un disprezzo totale, perché pensano che non solo io sia un carnivoro, e quello ce ne sono tanti di carnivori, ma sia anche, come dire, un sostenitore di idee bieche, sia anche un massacratore di animali, uno che ha provocato evidentemente delle cose terribili nel mondo della comunicazione, le famose iene vegane. Alessandra Di Lenge, buonasera. Ma qui ci batteremo in modo molto molto leale, molto molto leale. Allora, cara Alessandra, io voglio capire com'è questa cosa qui che abbiamo visto nella metropolitana di Milano, Alessandra, e voi che strillavate, secondo me non avete niente da fare, non so che ora era, 90, no, allora, 90 animali al secondo, che cos'è 90 animali allora, al secondo? 90 animali al secondo è il numero degli animali che vengono macellati solo in Italia, 90 al secondo, quelli vabbè, che ovviamente sono... sicuri, perché poi ci sono tutte le macellazioni clandestine. 90 animali al secondo, cioè noi siamo, secondo te siamo responsabili oggi in Italia dell'uccisione di 90 esseri umani ogni secondo, giusto? No, sto dicendo 90 animali non umani, tu hai detto esseri umani. Beh, secondo te saranno uguali agli esseri umani, secondo te, no? Assolutamente sì, perché comunque è sempre stato l'uomo a fare distinzioni di specie. Per cui secondo te mia figlia Viola, che si chiama Viola, ha la stessa dignità, che ne so, di un maiale? Allora, io ti faccio una domanda. No, dimmelo. No, ti faccio una domanda che è una risposta. Fammela. Cosa dicevano le persone che volevano schiavizzare le persone di colore, che non avevano la stessa dignità? È la stessa cosa scusami. La gente che continua a mangiare carne. No, cioè, nel senso, cioè, noi siamo degli schiavisti, secondo te? Siamo come gli schiavisti. È lo stesso identico tipo di ragionamento, perché all'epoca gli stessi rispondevano a questa maniera. No, le donne, gli stati in cui vanno ad infibulare le donne, sono liberi di fare questa però, cosa. Però scusami Alessandro, tu stai le donne dicendo che hanno noi minore dignità, tu stai, secondo loro. Tu stai dicendo che oggi noi viviamo in una società schiavista. Cioè la nostra ma la nostra società è schiavista, cioè tu stai paragonando la società occidentale, che ne so, negli Stati Uniti, in Italia, c'è la pena di morte negli Stati Uniti. Ma lasciamo la pena di morte è in alcuni stati. No, ma prendiamo l'Italia allora, Secondo te l'Italia è un paese schiavista perché ammette l'uccisione degli animali? Ma io sto semplicemente dicendo che siamo come nello schiavismo. È il ragionamento che ha permesso ogni tipo di sterminio anche tra umani. Cioè, perché qualcuno ha la pelle diversa, è fatto differentemente, ha un sesso diverso da quello dominante, ma e quindi lo così, si può massacrare e via discorrendo. Scusami, ma tu mi stai dicendo che, ripeto, mia figlia Viola, mi dispiace metterla in mezzo, ma è la persona più vicina che ho, per cui è per questo che te lo dico, non è che lo dico per fare casino. Cioè, è paragonabile, che ne so, a un maiale che è nel Ticino, in una fattoria del Ticino, è uguale, ha la stessa dignità. Sai che se non si fossero battute delle persone, tua figlia Viola non avrebbe neanche diritto di voto, perché le donne ce l'hanno da pochissimo. Cioè, il diritto ed è stato grazie alla gente come me che tua figlia Viola potrà votare, io posso votare, perché delle donne sono andate in piazza dicendo sveglia, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Cioè, scusa, ma c'è la piccola differenza che gli animali non voteranno mai, E quindi? No, ma per dire, gli animali un sacco di non ci sarà mai un animale presidente del consiglio, non ci sarà mai un animale. Quindi questo cosa significa? Questo significa che c'è una differenza, c'è una differenza fondamentale tra gli uomini e gli animali. La scala di intelligenza che l'abbiamo fatta noi. perché se andiamo a vedere come sono capaci di fare altre cose gli animali nel loro ambiente, noi non saremmo mai capaci di orientarci. Ma che c'entra? Quello è chiaro. No, è ok. Allora non saremo mai capaci di? Che differenza c'è? Non saremmo mai capaci di orientarci nel cielo come un uccello. E quindi se la scala di valori fosse fatta in base a quell'intelligenza... Allora, però tu devi essere coerente, Alessandra. Tu devi dire che la vita di un essere umano, cioè di un essere umano, intendo mia e tua, mia figlia Viola, quello che è, vale come quella di un maiale. Allora, io sto dicendo... No, ma se non lo dici, devi essere conseguente da questo punto di vista. Io dico che la mia vita vale come quella di qualsiasi altro individuo, animale e non umano che sia, e non ho voglia di fare giochetti tirando in mezzo tua figlia. No, mia figlia, lascia bene, mia figlia, ma diciamo Giuseppe Cruciani, cioè tu, la mia vita vale come quella di un porco, cioè di un... Chi l'ha fatta la scala di valori? Ma che vuol dire chi l'ha fatta la scala di valori? È normale che la mia vita non vale come quella, no? Gli uomini la scala di valori, è ovvio che si sono messi in cima la scala di valori, torniamo sempre lì, dai! Scusami, coso, un cacciatore quanto vale? Cacciatore quanto vale? La vita di un cacciatore. Guarda, no? Allora, io ritengo che se nel 2016 c'è ancora gente che la mattina non c'ha nulla da fare e va a sparare a degli uccellini che smembra con una fucilata, sinceramente, probabilmente devono svegliarsi un attimo, perché c'è molto di meglio da fare inquinando l'ambiente. Ma come li consideri i cacciatori? A parte il fatto che sei contrario alla caccia, quello è normale. Sono contrario alla caccia, li considero delle persone assassini? Che si devono... Assolutamente. Assassini, sono degli assassini. Assassini, certo. Assassini, da mettere nel tuo mondo ideale sarebbero da mettere in galera. No, io volevo dire una cosa, però, dal momento che ci vengono sempre a dire cosa facciamo noi e dal momento che anche tu hai tirato in ballo questa cosa nel mio video per i bambini che muoiono di fame, no? Sapete che mangiare carne, veramente gli alimenti sono dati. Non a è vero, non è vero. Ad andarvi a leggere. Non è vero, sono tutte falsità enormi. Sono tutte falsità. Allora, falsità enormi, colossali. Portami le fonti. Te stai dicendo che la carne toglie da mangiare ai bambini perché provoca delle cose nel pianeta è una puttanata inaudita. Dai, quali cose? Ma è una cosa assurda, non ha senso. Ma non ha senso dirlo, dai, su. Come non ha senso dirlo? Non ha nessun senso. Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali. Ma ok? Quanti bambini che muoiono di fame farebbero 15 kg di cereali? Ma non è così che funziona. No, è così, non funziona così. Dimmi perché non... Ma perché non funziona così? Perché non funziona così? Non puoi dire se non mangiamo più la carne, allora finisce la fame nel mondo. Dai, su, ma non certo è così. Che sì, sono dati falsi. Ma non è così. Mentre distribuite le risorse, sai che per produrre 5 kg di carne ci vuole il quantitativo che di acqua? Che utopie. Utilizza in un anno, non è un'utopia. Non è così. C'è un sacco di gente che sta cambiando modo di mangiare. Basta cambiare, di fare la spesa, basta aprire il cuore. Allora, Alessandra... Tu hai un cane? Hai avuto cane? No, non ci ho mai avuto cani. Aspetta un secondo, Alessandra, che torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. Ferma lì. La Zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani e Parenzo, facciamo una cosa a tre. Vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. A Giuseppe, ieri sera stavo ascoltando Zanzara come tutte le sere, faccio tassinare a Roma. Ieri cliente voleva andare a fare una capatina a via Ustienze da cinese, quella da mezza piotta là. Allora ragazzi, abbiamo in collegamento con noi un'attivista vegana, iene vegane, Alessandra Di Lenge. Alessandra, io sulla questione dello spreco delle risorse, dello spreco, ti potrei rispondere citando, molti mi dicono, vedi che non sai rispondere, dici solo che non è così, ti potrei citare, perché ce li ho preparati da tempo, sì? 30-40 studi che dimostrano esattamente il contrario, per cui non stiamo su questo terreno, perché se tu dici... No, ma stiamo su un terreno, diciamo, etico. No, ma su un terreno etico. Cosa vuol dire il terreno etico? Secondo te noi siamo degli assassini? Cioè, i macellai cosa sono per te? No, spiegami che cosa sono i macellai. I macellai è gente che è pagata per ammazzare, di conseguenza se si trattasse di uomini si direbbe omicidio, si tratta di animali non umani e posso dire tranquillamente assassino, assolutamente, come cioè, lo definisci. Sono degli assassini, sono degli assassini. Sì, sono certo. Degli assassini. I macellai sono degli assassini. Sì. Dovrebbero chiudere gli macellai, secondo le macellerie dovrebbero chiudere. Ma sai che ne conosciamo diversi? E quei sono resi conto di quello che facevano e sono diventati attivisti per i diritti si degli animali. Si sono pentiti. No, presentami, perché è interessante, magari l'intervista. Sono pentiti, sì. Cioè, scusa, va bene? Che questi che fanno? Le macellerie in tutta Italia, io ne conosco tantissime, che ovviamente sono diventate una specie di idolo per loro, no? Cioè, le macellerie in tutta Italia, come, che cosa devono fare? Devono riconvertirsi? Devono cambiare lavoro? Sì, si possono tranquillamente riconvertire. In ma che cosa, io... scusa, in che cosa? Possono andare a prendere prodotti vegani, che ce ne sono un sacco, e metterli al posto dei cadaveri. Ma questo, perché attenzione anche a questa piccola cosetta, che voi vi fate tanto tronfi del fatto di essere predatori e cacciatori naturali, ma no? Questa è che la cosa, scusa Alessandra, no, detta anche The Warrior, detta anche The Warrior, Alessandra, Alessandra, tu è una sorta di pianificazione comunista questa roba qua, cioè no, si devono riconvertire, se dove si devono riconvertire anche quelle, che ne so, le latterie, si devono riconvertire, si devono riconvertire anche le yogurterie, perché prendono prodotti animali? Se ci fossimo noi al posto loro, tutto sarebbe differente e si ritorna al punto di partenza. Noi al posto loro, noi al posto loro. Assolutamente. Al posto di chi? Noi al posto di chi? Al posto di chi? Di cosa stiamo parlando? Cioè noi chi? Non ho capito. Più grosso che sta capitando, dando schiaffi in faccia a tutto il pianeta. Cioè un genocidio, sta avvenendo un genocidio. No, ma perché stiamo uccidendo la Terra in questa maniera cioè, qua? Non ho capito se sta avvenendo un genocidio o no. Ho detto che stiamo uccidendo il pianeta, quindi ho esteso la cosa. No, stai parlando di genocidio, no? Perché tu mi un domani i vostri nipoti non avranno da mangiare. Ma non dire cose stupide, dai, su. Che avete continuato a dire che chi se ne frega. Avete paragonato il genocidio, quello che voi chiamate il genocidio degli animali, al genocidio degli ebrei. Posso dire una cosa? Sì. Ma che i nazisti hanno fatto agli ebrei, gli umani lo stanno facendo agli animali. Isaac Vasi, ma scusi, signora, premio Nobel per Parenzo, la letteratura. Parenzo, intervieni a questo punto, a questo punto, su nazisti. Sputa sentenze. Ma dai, su, ma chi? Se un ebreo ha detto una stronzata, non è che... Ah, vabbè, ma questa è una persona che l'ha vissuto. Ma che vuoi, ma stai paragonando... permettere di dirlo, stai paragonando, l'ho detto io. Stai paragonando lo sterminio degli ebrei. Ma che stai citando? L'hai detto perché ci credi? Perché ci credi? Ci credi? Sai cosa significano le citazioni? Ma dai, che ci credi? Ma non dire. Ma sì, è un modo paraculo. Dai, su Parenzo, dimmi. Come si fa? Ma adesso io ho capito, la signora è anche simpatica. È Parenzo. Sono Parenzo. Ah, non lo conosco. Vabbè, Parenzo. La signora non la conosco neanch'io, è molto simpatica. Ok, bene. Le Iene è un programma televisivo. Ma non c'entra niente con le Iene. Perché... Ma le Iene non c'entra niente, non ha capito una mazza. Iene è un film di Tarantino, quindi proprio andiamo all'origine. Iene vegane è una specie di organizzazione. La loro voce come Iene chiamano, vegane. La loro voce trattino Iene vegane, la voce degli animali sarebbe. Ma non me ne frega niente, va benissimo. Vabbè, la che voce, c'entra, la te ne frega niente. Per presente... Va bene, cosa non gliene frega, perché sta parlando con me dal momento che sta parlando con me. Ma no, bravi, va benissimo. Rispetto per tutti, avanti tutta, fate quel che volete, tanto le macellerie non chiuderanno. Io continuerò ma chiuderanno a bere il latte. Sicuramente, perché in calo il consumo della carne. Ride bene, potete chi ride fare, potete continuare a dire quello che volete, mi va benissimo. Beh, meno male, questo per fortuna sì. Non per... me ne frega niente, non ho nessun problema. Fino a quando non mi venite, fino a quando sono al ristorante, sto mangiando la mia bistecca. Nessun cadavere, chiamiamolo col suo nome. Certamente mangio bistecca. Se qualcuno cadavere, però, mentre io mangio la mia bistecca in uno dei migliori ristoranti di Roma o di Milano, qualcuno viene, o in una bettola anche, qualcuno viene e mi toglie il piatto e mi dice no, tu questo, ecco, lì mi incazzo. Cioè, se qualcuno viene a rompermi i coglioni mentre io mi sto mangiando il mio filetto, lì purtroppo mi arrabbio, perché sono al ristorante, sto pagando, sono al supermercato. Che stai facendo sicuramente gli fino a quando voi non venite a rompermi i coglioni nel mio piatto. Nella storia. Cioè? Sono gli stessi ragionamenti che ha fatto ogni prepotente nella storia. Secondo te i ristoranti di carne andrebbero chiusi? Faccio. I ristoranti di carne andrebbero chiusi? E lo faccio, i ristoranti di carne si possono tranquillamente convertire. Ma ragazzi, io ho detto voi potete dire quello, potete dire e fare quello che volete, a dire queste panzane, io dico solo in radio, io dico solo panzane di che? Che panzane? Le panzane dici tu? Io dico solo che se trovo uno di voi si dovrebbero convertire, certo, i ristoranti si stanno convertendo in ogni, ma quale si stanno convertendo, ma quando mai? Prodotti vegani, ma va benissimo mica bisogna togliere la carne, però per mica bisogna togliere la carne, veramente non so dove tu vai a fare la, ma perché scusa, se consideri degli assassini le persone e complici di un assassino delle persone che mangiano la carne, perché non vai a fare un attentato contro, che ne so, come dice il mio amico Montanini, contro Giovanni Rana? Perché non andate a fare, come perché dire, fare la rivoluzione attentati? Seria, perché la rivoluzione fare seria. Attentati? Ascolta, noi siamo per una causa di pace. ho capito. Siete voi che cercate di farci passare per degli estremisti. Noi siamo una causa di pace. Scusa, se tu consideri un genocidio, c'è in atto un genocidio. Stai dicendo, c'è in atto un genocidio. Primo, è un grande massacro degli animali. Dunque, siamo tutti complici di questo genocidio. Come ci si contrappone a un genocidio? Ci si contrappone anche in maniera forte, no? Perché se c'è una cosa così grave come il genocidio, uno agisce di conseguenza, o no? Ci sono delle forme di ribellioni non violente. Tipo? Non è tipo? Necessario fare tipo un che cosa? Sei te che hai tirato fuori un attentato. Ma no, ma io sono io, certo, perché secondo me la conseguenza normale sarebbe questa. Perché non ti vai a fare marchiare? Sai quegli attivisti, normale. Alessandra, quegli attivisti che si sono fatti marchiare sì, il corpo. 269. Certo. Il corpo, vatti a fare marchiare anche tu. Guarda, come marchiano le bestie? Noi abbiamo bloccato un mattatoio per un giorno. Ah, e beh, le cose allora sai. All'ordine che paura, del giorno, che paura. Che fate? Che paura cosa? Che paura per i mattatoi, sono messi che tutti paura. Cosa? Sono messi tutta paura i mattatoi in Italia, ma guarda. Stanno tremando. Il corso della storia è sempre stata una, due, tre persone che hanno fatto cambiare le masse e questo non segna la storia. Senti, ma tu con i pidocchi che fai con i pidocchi? Io non ho pidocchi. No, ma con i pidocchi che fai se ti dovessero venire i pidocchi? Li ammazzi o no? Scusami un secondo. Allora, no, ma li ammazzi o no i pidocchi? A fronteggiare il problema dei pidocchi ci risentiremo e ti dirò che soluzione ho trovato. No. Perché adesso la mia igiene perfetta e probabilmente... Beh, ma che c'entra? Li puoi prendere, no? Li puoi prendere. Mi consentono di non avere pidocchi, mi consentono di non avere schifezze sul corpo, che ha un sacco ma che c'entra? Di gente, no, perché i pidocchi ti fanno schifo, sono animali i pidocchi, perché ti fanno schifo? Ma perché mi tiri fuori i pidocchi? No, ma perché è interessante, è interessante. Il discorso che se fossi un'isola deserta con un coniglio e stessi morendo no, di fame, no, cosa no, farei? No, no, no, lascia perdere, no, una situazione reale, no, una situazione reale, ti vengono i pidocchi in testa, ti può succedere? Ti vengono i pidocchi in testa, cerco la soluzione per non nuocere, ma ne parleremo. Cioè, per non ammazzare i pidocchi. Non ti posso rispondere su un problema. Ma no, ma non fare, però, non mi prendere, non fare la paracula con me, però, Alessandra. Tu stai facendo il paraculo. No, i topi. Hai mai visto un topo? Con i topi, che bisogna fare con i topi? I topi. Non mi ci sono trovata con i topi? Scusa, io vivo in città. Ma che con i topi con è i giusto topi? Ammazzare i topi o no? Ascolta, sai quali sono i predatori naturali dei topi che vivono in campagna con quali i topi? Sono? I gatti. E i gatti, la allora natura, che fa? Distribuiamo i gatti per le città, la cioè, natura a Roma è pieno regolata per bene. Conto per, tuo. Per cui i topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. Non vanno uccisi. Bene, le zanzare? Le zanzare che facciamo? Le zanzare? Ma scusa, me lo dici te col nome della trasmissione che ma avete. Che c'entra? Dobbiamo le zanzare? Io a casa, a me vi piace ammazzare dovreste le zanzare. Dovreste difendere le zanzare, portano il ma se ti vengono addosso, che fanno? A te, se io ti vengono addosso, che fai tu? Io le sposto. Le sposto le zanzare, mamma mia. Cosa c'è da ridere? Le sposti. No, fammi capire cosa c'è da ridere. Insomma, io la schiaccio e basta. Io la schiaccio, io sono un assassino. Vabbè, ma si capisce, d'altronde siete l'emblema della prepotenza maschile. Ma perché? Io sono prepotente se ammazzo una zanzara? No, in tutto, assolutamente anche. Cioè, anche, nel senso, te la anche. Sposti, te la sposti da posto, non ti ammazza, non ti pizzica e non succede niente perché la devi schiacciare. Lo sai che dimmi quando un tu buon motivo sai che... capito, ma la terza volta che mi ronza vicino all'orecchio, esatto. Francamente, senza alcuna remora, prendo il giornale, in particolare la Repubblica. Perché sì. Vabbè, che c'entra la Repubblica? Perché, no, ho detto ho il Sole 24 Ore, però quello lo tengo sempre sul comodino lindo e intatto, che non vuol dire che non lo leggo. No, sicuramente vuol dire che non l'hai letto. No, comunque. Lindo e intatto. Prendo il quotidiano diretto da Ezio Mauro, la Repubblica, che è bello corposo, con l'inserto del venerdì. Allora? Tanto avete il sangue acido, le zanzare non vi cagano. Ma perché abbiamo il sangue acido? Perché abbiamo il sangue acido? No, io ce l'ho dolce, purtroppo. Per quello che mangiate, siete intossicati, quindi non avete neanche... Ma scusami un attimo, ma adesso, domanda finale, ma molti dicono, sarà, sì. Non pigliarla male questa cosa, eh. No, molti dicono che le vegane, cioè chi non mangia la carne fa sesso meglio, fa sesso in maniera molto più forte, molto più densa, molto più è vero o no sta cosa? Me l'ha detto a me me lo dice Red Ronnie, guarda, si fa sesso in maniera pazzesca, vegans do it better. Se uno non ha il sangue intossicato, sicuramente ogni prestazione migliore. Io sono una personal trainer e ti assicuro che da quando ho smesso di mangiare morti, derivati dei morti eccetera, morti. Le mie prestazioni fitness sono tutt'altro che peggiorate. E anche sessuali? Questo lo lascio al dubbio. Ciao Alessandra, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth don't like him. Lucio, Milano, sure vai! Plays a meme. Lucio. Pronto? Dimmi, dimmi, dimmi. Ciao caro. Dimmi, dimmi. Ascolta, no, volevo tornare sul... Vai, vai, vai, quello che vuoi, sul dai. Sul problema iniziale. Vai, vai, vai, cioè vai. Quando vai. Avete parlato con tutti quei marocchini... non so se fossero marocchini. Africani, eccetera, africani, comunque... vabbè, comunque erano. Vabbè, allora? Persone, tutte quelle persone che ti hanno insultato... sono abituato. E che da 30 anni sono qui in Italia. Vabbè, allora? E allora, cosa vogliamo fare? Cioè, non lo so, sei tu che hai chiamato, mica io. Che vogliamo fare? Che vogliamo dire soprattutto, Lucio? Che vuoi che dire? Vogliamo dire? Che vogliamo dire? Che questi dopo 30 anni che sono in Italia ancora si permettono di dire queste cose? Che ne so io, ma dire cosa? A chi ti riferisci? A quello che mi ha attaccato, a quello che mi ha attaccato all'inizio? Dimmi qualcosa tu, cosa ne pensi? Ma che ne questa gente che da 30 anni è qui e si permette ancora di ragionare in questa maniera. Va bene, Lucio, ho capito. Paco, Belluno, vai, ecco Paco, vai. Dimmi Paco, mio. Ciao Cruciani. Dimmi, che vuoi Paco, spada di fuoco. No, no, la prima cosa, cioè, nessuno non ha diritto a entrare e minacciarti. Questa è una cosa che nessuno deve fare. Beh, che hanno fatto però. Ma sì, ho capito io, per quello che sono chiamato, perché cioè, l'ultima delle cose è chiamare, insultare o vabbè, allora? Insomma, cose del genere. Però tu devi chiedere scusa ai musulmani. Ma io non chiedo scusa a nessuno, guarda. Sì, tu, ma sì, non tu, chiedo scusa a nessuno, ma assolutamente. Allora, ha chiesto scusa quel tizio, secondo me sbagliando, ha chiesto scusa perché ha detto una cosa, non è che uno ci ripensa dopo, chiedo scusa se ho offeso. Cioè ha detto, secondo lui, quello che era un fatto tecnico e tecnicamente una persona di 54 Cruciani, anni che è andato con una di nuovo, ascolta, di non, è, così. Non c'è niente di tecnico, cioè tu adesso apri un Paco, ma tu oltre Paco, non ho capito, ma tu oltre alla questione della spada di fuoco eccetera, sei anche muslim o no? Ma sicuramente sei musulmano, vabbè, con la spada di fuoco c'è musulmano, musulmano, vabbè, è d'accordo, no, no, ma io sono musulmano, Cruciani, sono musulmano, sei musulmano per quello che ti ho chiamato per dirti di chiedere scusa ai musulmani. Ma non devo chiedere scusa a nessuno. Sì, devi chiedere scusa a Cruciani, ma assolutamente no, scusa, ma perché tu hai sbagliato alla grande. Ma non so, non devo chiedere scusa a nessuno, cose, spada, Cruciani, no. tu allora prenditela la ma dov'è l'errore? Allora presentati con la Lega, allora che c'entra presentati con la Lega? Cosa ma c'entra? No, ma tu sai, si stai comportando come che si comportano loro? Io ho detto semplicemente che... Poi si rompono i coglioni a insultarsi dalla mattina e dalla sera. Allora, tu sei contro gli immigrati. Ma io non sono contro gli immigrati, tu sei contro Paco. Musulmani, tu sei contro ma musulmani. Ma non sono contro musulmani, però alcune cose vanno dette. Sei come quello della Lega, alcune cose, vanno dette. Il rapporto che c'è tra l'Islam, in alcune parti dell'Islam, naturalmente, come dice Parenzo, e le donne, esiste, è un problema reale. Non è un problema inventato. Sì o no? Sì. Vabbè, Parenzo, buona Siena, ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao, ciao, ciao. Voi siete degli stronzi, ma il fatto è che siete i migliori tra gli stronzi, è questo che fa la differenza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.